Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia. Gentili ascoltatori, dalla Sura delle Donne ascolteremo ora i versetti 29, 30 e 31 dalla voce del fratello Borumande. Seguirà la traduzione in lingua italiana. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما صدق الله العلي العظيم. O voi che credete, non divorate vicendevolmente ed ingiustamente i vostri beni, ma commerciate con mutuo consenso, e non uccidetevi da voi stessi. Allah è misericordioso verso di voi. Chi commette questi peccati iniquamente e senza ragione sarà gettato nel fuoco. Ciò è facile per Allah. Se eviterete i peccati più gravi, che vi sono stati proibiti, cancelleremo le altre colpe e vi faremo entrare con onore in paradiso. Radio Italia IRIB, una finestra sul mondo. Gentili ascoltatori, vi informiamo che i programmi in lingua italiana della Repubblica Islamica dell'Iran vengono trasmessi in onde corte giornalmente dalle 6.30 alle 7.30, ora di Greenwich, sulle seguenti frequenze: 15.480 kHz pari a 19 metri e 17.660 kHz pari a 16 metri. La replica di questa trasmissione va in onda il pomeriggio dalle 12 alle 13 ora di Greenwich sul satellite Intelsat 902 e può essere ascoltata anche attraverso il sito internet italian.irib.ir, come del resto tutte le altre trasmissioni. La replica per Teheran su FM va in onda tutti i giorni dalle 14 alle 15 locali su 99,5 MHz. Infine, il programma serale va in onda su onde corte dalle 19.30 alle 20 di Greenwich sulle seguenti frequenze: 7.315 kHz pari a 41 metri e 9.755 kHz pari a 31 metri. Questo programma è stato ideato per l'Italia e per l'Europa centro-occidentale. In nome di Dio, salve gentili ascoltatori. Vi parla Hossein dalla voce della Repubblica Islamica dell'Iran, programmi in lingua italiana. Insieme al collega Davud ho il piacere di presentarvi la programmazione del mattino di oggi, venerdì 10 maggio 2013, che prevede in apertura il giornale radio accompagnato da due brevi note di commento. Seguiranno poi altri due programmi. Prima andrà in onda un programma di attualità dal titolo Aperta Fiera Internazionale del Libro a Teheran. E per finire ascolteremo un'altra puntata del nostro dibattito in studio, Tavola Rotonda. Ma ora diamo spazio alle notizie. A tra poco. Iran ha presentato nuovo drone Hamase. Congresso USA, sanzioni contro Iran hanno perso effetto. Sudan, la marina iraniana ha restituito la sicurezza al Mar Rosso. Iran, elezioni presidenziali, coalizione dei tre presenterà un solo candidato. Siria, pressione GB su Unione Europea per approvare invio armi a oppositori Assad. Signore e signori, buon venerdì. In primo piano, come avete appreso dai titoli, le notizie inerenti all'Iran, il nostro paese. L'Iran ha presentato giovedì l'ultimo prodotto della sua industria difensiva, il drone da ricognizione e da combattimento, coniato Hamase Epopea. Secondo l'IRIB, il drone è stato presentato in una cerimonia con la partecipazione del generale Ahmad Vahidi, ministro della difesa. Questo drone è stato costruito dagli esperti della difesa ed è simultaneamente capace di svolgere azioni di sorveglianza, ricognizione e sferrare attacchi missilistici, ha spiegato Vahidi. L'aereo ha la proprietà stealth e quindi può nascondersi agli occhi dei radar nemici, ha aggiunto. Il nuovo drone iraniano, hanno spiegato gli esperti, senza fornire dati, vola a quote elevate e ha un raggio d'azione superiore rispetto ai modelli precedenti. L'Iran ha costruito il suo primo drone a lungo raggio nel 2010, presentando il Charrar in grado di volare fino a lunghe distanze a alta velocità. Nel settembre 2012 è stata la volta del secondo drone di grande importanza, il Shahed 129, in grado di volare per 24 ore senza interruzione. Nel dicembre 2012, inoltre, il comandante della Marina di Pasdaran, Ali Fadavi, ha inoltre annunciato la produzione in Iran su larga scala del drone americano Scan Eagle, dopo che uno di questi droni, sconfinato nei cieli iraniani, è stato catturato dalle forze dei Pasdaran. Un rapporto della Commissione di ricerca del Congresso USA testimonia che le sanzioni unilaterali ed illegali di Stati Uniti ed UE contro l'Iran stanno perdendo il loro effetto. Gli effetti strategici delle sanzioni possono essere insignificanti se l'Iran si adegua economicamente ad esse, riferisce il rapporto del CRS, il Congressional Research Service, ricordando che le sanzioni hanno al contrario portato ad una impennata nell'esportazione di prodotti non petroliferi come quelli industriali, minerari o agricoli. Non pare che le sanzioni abbiano ridotto l'influenza dell'Iran o le capacità strategiche di questo paese in Medio Oriente, aggiunge il rapporto. Secondo lo stesso documento, le sanzioni, a lungo andare, sono persino un bene per l'Iran che, diversificando le sue fonti di reddito, riduce la sua dipendenza dagli introiti petroliferi. Il rapporto ricorda che le sanzioni non hanno avuto alcun effetto sul programma nucleare di Teheran e sulla capacità iraniana di sviluppare armi per la propria difesa. Agli inizi del 2012, gli Stati Uniti e l'Unione Europea hanno imposto nuove sanzioni contro il settore petrolifero dell'Iran e quello finanziario, con l'obiettivo di impedire agli altri paesi di acquistare petrolio e condurre transazioni con la banca centrale dell'Iran. Al termine della giornata di giovedì è salito di 240 il numero degli iscritti per candidarsi al prossimo giro delle elezioni presidenziali in Iran, mentre si avvicina la data dell'11 maggio, in cui terminerà lo spazio di tempo previsto dalla legge per potersi iscrivere. Al Ministero dell'Interno iraniano giovedì i colpi di scena non sono mancati, le candidature di spicco sono state quelle di Ali Fallahian, ex ministro dell'Intelligence, e di Mohammad Gharazi, ex ministro delle Telecomunicazioni. Fallahian, che partecipa come indipendente ed è attualmente membro del Consiglio degli Esperti, ha respinto la probabilità di ritirarsi a favore di qualche altro candidato e gli ha spiegato di essersi presentato perché ritiene di poter rafforzare l'Iran politicamente, culturalmente e socialmente. Gharazi invece ha individuato l'inflazione, il principale problema della nazione, e la sua priorità nel caso di una elezione. Tra Haddad Adel, Qalibaf e Velayati, solo uno parteciperà alla fase finale delle elezioni presidenziali in Iran. Questa è la notizia confermata giovedì da Haddad Adel, ex presidente del Parlamento, su quelli che sono tre dei candidati più autorevoli alle elezioni presidenziali. Le tre personalità che hanno annunciato sin dall'inizio di formare una coalizione si registreranno tutti e tre come candidati, ma come ha spiegato giovedì Haddad Adel, alla fine solo uno parteciperà alla corsa per la presidenza, anche se non si sa come verrà decisa tale partecipazione. Tra i tre personaggi di spicco, le maggiori chance vengono date a Qalibaf, attuale sindaco di Teheran, e Velayati, ex ministro degli esteri ed attuale consigliere per la politica internazionale della guida suprema iraniana, l'Ayatollah Khamenei. Il comandante della Marina del Sudan, il generale Dalil al-Dawah, ha affermato che la presenza della flotta iraniana nel Mar Rosso ha ridato la sicurezza a questo mare. La flotta della Marina iraniana ha combattuto con efficienza contro i pirati e oggi le coste del Mar Rosso fruiscono di una nuova e piacevole sicurezza, ha affermato al-Dawah dopo aver incontrato a terra il suo pari iraniano, l'ammiraglio Habibullah Sayari. L'alto comandante militare del Sudan ha affermato che l'obiettivo della sua visita in Iran è rafforzare le cooperazioni strategiche tra i due paesi, annunciando che l'Iran ha anche approvato la vendita al Sudan di equipaggiamenti militari marini utili per garantire la sicurezza delle coste. Dal canto suo, l'ammiraglio Sayari ha spiegato che in cooperazione con il Sudan, l'Iran pianifica maggiore presenza nel Golfo di Aden e nello stretto di Bab el-Mandeb e che monitora attentamente gli spostamenti delle forze straniere in queste zone con l'aiuto del partner africano. Passiamo agli esteri. Il segretario generale degli Hezbollah libanesi, Seyed Hassan Nasrallah, ha affermato che i recenti attacchi aerei di Israele ai danni della Siria hanno avuto come scopo quello di indebolire il fronte della resistenza anti-israeliana. Parlando giovedì in un discorso trasmesso in TV, Nasrallah ha ricordato che la resistenza anti-israeliana diverrà sempre più estesa e potente. Israele vuole escludere la Siria da questo fronte con i suoi attacchi. Nasrallah ha poi aggiunto che la sorgente di forza della resistenza in Libano e Palestina è proprio la Siria. Il leader del più influente partito libanese ha poi elogiato la leadership siriana per i suoi nervi saldi, l'intelligenza e l'approccio strategico con cui ha saputo affrontare la battaglia. I diplomatici del Regno Unito hanno messo in circolazione giovedì a Bruxelles una bozza che propone la liberalizzazione della vendita di armi ai terroristi in combattimento con il governo popolare del presidente siriano Bashar Assad. La Gran Bretagna ha intensificato a dismisura le sue pressioni per poter rovesciare il governo di Assad, sostenuto dal popolo che resiste altresì ai complotti di Arabia Saudita, Qatar, Turchia, Israele e Stati Uniti. Secondo la bozza presentata dal Regno Unito ai paesi dell'Unione Europea, due possono essere le opzioni. La prima, quella voluta da Londra, l'abolizione assoluta dell'embargo sulla vendita di armi ai ribelli in Siria. La seconda opzione, meno desiderata dal Regno Unito, ma comunque proposta dagli inglesi, quella di rimuovere il termine non letali dalla lista delle eccezioni, e cioè di poter vendere anche armi pesanti ai ribelli. Il presidente afghano Hamid Karzai ha affermato che Washington ha chiesto di mantenere nuove basi militari nel territorio afghano anche dopo il ritiro delle proprie truppe. In un discorso tenuto giovedì all'Università di Kabul, Karzai ha spiegato che queste basi sorgeranno nelle principali città del paese come la capitale Kabul o Herat e Kandahar. Sono in corso negoziati seri e delicati con gli Stati Uniti, ha detto il presidente afghano. Karzai si è detto disposto ad accettare tale proposta a patto che gli Stati Uniti si impegnino ad intensificare gli sforzi per la pace, rafforzino le forze di sicurezza afghane, diano supporto concreto all'economia, costruendo centrali elettriche, strade e dighe e diano supporto al governo nel suo lavoro di amministrazione. La settimana scorsa lo stesso Karzai ha ammesso di essere stato sul libro paga della CIA per molti anni. Un nuovo rapporto del Pentagono dimostra che circa 3 stupri si verificano ogni ora all'interno delle forze armate americane. Il rapporto di cui ha parlato giovedì il Washington Post ritrae di fatto una condizione allarmante all'interno dell'esercito americano in tema di stupri e assalti sessuali, 3 per ogni ora o circa 70 al giorno. Nel 2012 26.000 persone in servizio sono state vittime di stupro, il 35% in più rispetto al 2010, e ciò mentre il rapporto stesso ammette che la maggior parte dei casi non viene mai denunciata per via della mancanza di fiducia delle vittime nella giustizia. Il bilancio del peggior incidente industriale del Bangladesh ha raggiunto i 1.000 morti dopo la scoperta di nuovi cadaveri tra le macerie dell'edificio del settore tessile crollato vicino Dhaka il mese scorso. Il numero dei morti è arrivato a 1.000, ha dichiarato il portavoce dell'esercito Shehnawaz Zakaria dopo 17 giorni di ricerche tra i resti dell'immobile di 9 piani nella città di Sabar, 30 chilometri a sud della capitale. Cari amici, era l'ultima notizia di questa mattina, grazie per l'attenzione. Per altre notizie potete consultare il nostro sito italian.irib.ir. A tra poco con i due commenti di oggi. Con l'attacco alla Siria, Israele aiuta l'alleato Al-Qaeda. Al termine di una settimana in cui l'amministrazione Obama ha espresso l'intenzione di inviare armi pesanti ai ribelli siriani egemonizzati da Al-Qaeda, Israele ha lanciato degli attacchi aerei all'interno del territorio siriano che serviranno a imbaldanzire proprio miliziani opposti al governo di Damasco. Razzi israeliani hanno bombardato zone alla periferia di Damasco il 5 maggio di prima mattina durante un raid fatto apparire come rivolto contro missili diretti verso Hezbollah in Libano. Questo attacco israeliano ne seguiva un altro di pochi giorni prima e ha portato a 3 il numero di aggressioni di Israele alla Siria perpetrate finora quest'anno. Il ministro dell'informazione siriano Omran Zoabi ha risposto avvertendo che gli attacchi aprono la porta a tutte le possibilità, anche se non si prevede che Bashar Assad ordini alcuna risposta militare. Così come è stato demonizzato negli ultimi 2 anni per rispondere a una sedizione armata, ogni tentativo di difendersi da parte della Siria fornirebbe a Stati Uniti e Israele il via libera per lanciare un'aggressione militare su larga scala. Immaginate se degli aerei militari siriani sparassero razzi su Tel Aviv e distruggessero strutture militari israeliane. Israele tratterebbe istantaneamente una tale mossa come una dichiarazione di guerra e gli Stati Uniti si unirebbero per radere al suolo le città siriane in pochi giorni. Eppure Israele bombarda la Siria per 2 giorni e ci si attende che la Siria si rassegni e non faccia nulla. Israele ha colto l'occasione per attaccare la Siria in tutta sicurezza, poiché sa che l'impegno di Damasco nel combattere gli insorti dell'esercito siriano libero significa che non sarà in grado di reagire, illustrando ancora una volta il supporto simbiotico tra Israele e i terroristi di Al-Qaeda. Il nuovo attacco israeliano è un tentativo di sollevare il morale dei gruppi terroristici che annaspavano a causa dei colpi loro inflitti dal nostro nobile esercito, ricorda la TV siriana in risposta all'attacco, aggiungendo che l'aggressione era coordinata con i terroristi. Con il lancio di attacchi che indeboliscono e distraggono Damasco dalla sua attenzione rivolta a sconfiggere i ribelli sostenuti dagli occidentali, Israele sta aiutando proprio gli stessi ribelli che avevano bruciato i ribelli. L'attacco di Israele alla Siria evidenzia ancora una volta il fatto che Al-Qaeda è un'organizzazione sotto il controllo degli Stati Uniti e di Israele. Novemilacinquecento bambini palestinesi detenuti da Israele dal 2000. Lo scorso martedì, grazie al ricercatore palestinese ed ex prigioniero Abdul Nasser Fervane, sono stati resi pubblici i dati che mostrano come le forze israeliane abbiano posto sotto detenzione 9.500 minori palestinesi dall'inizio della seconda intifada nel settembre 2000. I dati mostrano un aumento costante del numero di minori detenuti nel corso dell'ultimo anno. Questa crescita solleva preoccupazioni circa il futuro dei bambini palestinesi, ha detto Fervane. Gli arresti di minori, secondo le statistiche, sono stati effettuati in modo casuale, sia contro singoli bambini che contro gruppi. I bambini sono stati poi esposti a diversi tipi di tortura fisica e psicologica prima, durante e dopo le indagini. Tutte le confessioni estrapolate ai bambini corrispondono al falso poiché sono state fatte sotto tortura e ricatto, avverte Fervane, come se non bastasse, i giudici israeliani insistono affinché tali confessioni siano usate in tribunale. Fervane racconta come sia prima che dopo i processi i minori venissero tenuti sotto custodia in pessime condizioni nei centri di detenzione inadatti a ospitare prigionieri. Ignorando il diritto internazionale, le forze di occupazione israeliane usano i minori palestinesi anche come scudi umani. Secondo le statistiche rese note da Fervane, il numero di minori detenuti nelle carceri israeliane nel corso di un anno è di 760. Attualmente ci sono 243 ragazzi sotto i 18 anni, inclusi 42 bambini sotto i 16 anni. Questi dati sono parziali poiché non tengono conto delle centinaia di prigionieri adulti che erano minorenni al momento della loro cattura. Alcuni di loro hanno ricevuto condanne a lungo termine e a vita. Nel 2012 881 minori sono stati arrestati con un aumento del 26% rispetto all'anno precedente. Tuttavia, ciò che preoccupa maggiormente è che durante il primo periodo del 2013 293 minorenni sono stati posti sotto detenzione con un aumento del 9,3% rispetto allo stesso periodo del 2012 e del 34,4% rispetto al 2011. Teheran, voce della Repubblica Islamica dell'Iran, ed ora uno speciale per quanto riguarda la 26esima mostra internazionale del libro di Teheran. La 26esima fiera internazionale del libro a Teheran. Gentili ascoltatori, salve e ben ritrovati all'angolo di attualità di oggi che è dedicato alla 26esima edizione della fiera internazionale dei libri di Teheran. Restate con noi. Si è tenuta a Teheran la cerimonia di apertura della 26esima edizione della Fiera Internazionale del Libro di Teheran in presenza del presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad il 30 aprile nella sezione delle case editrici straniere della fiera. Il presidente della Repubblica Islamica dell'Iran è stato accompagnato dal ministro iraniano della cultura e dell'orientamento islamico Sayed Mohammad Husseini e dal presidente della Fiera del Libro Ali Ismaili. La Fiera Internazionale del Libro di Teheran, che si svolge dal 1 all'11 maggio, è frutto di una collaborazione tra più di 70 organizzazioni ed istituzioni, rendendo 3.000 attività utili, spendendo 2.400 persone ore. La Fiera Internazionale del Libro di Teheran è nota come uno dei più importanti eventi culturali iraniani dedicati al libro che ogni anno si svolge nel mese di maggio. Quest'anno, nella 26esima edizione della Fiera Internazionale del Libro, hanno partecipato 2.545 case editrici iraniane con 207.000 titoli di libri, oltre 1.600 case editrici straniere provenienti da 77 paesi con 250.000 titoli di libri. Nella sezione di latino, le case editrici dei paesi europei, americani, dell'Estremo Oriente e della Russia hanno presentato i loro 160.000 titoli di libri su un'area di 7.500 metri quadrati. Inoltre, nella sezione di arabo sono stati mostrati circa 80.000 opere delle case editrici degli Stati Arabi su un'area di 2.500 metri quadrati. Germania, Cina, Giappone, Corea del Sud, Azerbaigian, Venezuela, Russia, Messico, Turchia, Kazakistan, Belgio, Turkmenistan, gli Stati Uniti, Canada, Afghanistan, Spagna, Polonia ed India sono solo alcuni dei paesi partecipanti nella Fiera Internazionale del Libro di questa edizione. La presenza delle case editrici straniere gioca un ruolo principale nei rapporti interculturali tra l'Iran e le altre nazioni del mondo. Anche la presentazione delle opere iraniane in diversi paesi è nota come un modo di far conoscere meglio la ricca cultura persiana agli altri popoli, così che nel mese di marzo le case editrici iraniane hanno partecipato alla Fiera del Libro per ragazzi di Bologna e nel Salone del Libro di Parigi, entrambi tra i più importanti eventi culturali a livello europeo che ogni anno a primavera offrono ai visitatori la possibilità della scoperta dei cataloghi di case editrici internazionali. Inoltre, quest'anno più di 90 case editrici iraniane hanno partecipato nella sezione del mercato mondiale della Fiera di Teheran, offrendo così i loro titoli per attirare i lettori ed omologhi stranieri. Durante la 26esima edizione della Fiera Internazionale del Libro di Teheran, anche 102 case editrici dei libri elettronici iraniane presentano le loro più recenti opere. In occasione della fiera di quest'anno si svolgono 150 seminari specializzati in diversi campi collegati al libro e si fornisce un catalogo composto dai 3.500 libri, tutti pubblicati nel 2012 nell'Iran. Uno degli eventi in questa edizione è la presentazione della versione inglese del libro Muhammad, scritto da Ebrahim Hassan Beghi in presenza del ministro iraniano della cultura e guida islamica Sayyed Muhammad Husseini, contemporaneamente all'uscita internazionale. Il libro, che è stato tradotto da Shakoyeq Gandebhari in inglese, si offre al prezzo di $19.5 per la versione cartacea e di $8.5 per quella elettronica. Questa ultima è già disponibile sul sito Amazon. Si tratta di un romanzo che racconta una storia della vita del profeta Muhammad, la pace sia con lui, narrata da un uomo ebreo. gentili ascoltatori, vi ringraziamo dell'attenzione e a presto. Qui Teheran, voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Tavola rotonda. Salve e ben ritrovati cari amici del nostro programma settimanale di dibattito e dell'approfondimento politico Tavola Rotonda. Anche oggi, come il nostro solito, siamo in compagnia di due nostri ospiti con i quali tratteremo il tema di oggi, il governo di Enrico Letta. Amici, come vi ho anticipato, sono nostri ospiti in collegamento telefonico due personaggi, diciamo giornalisti e studiosi italiani naturalmente, con i quali abbiamo onore e piacere di parlare in questa settimana della situazione politica italiana. Il primo nostro ospite è il professor Claudio Moffa, docente dell'Università di Teramo e direttore del Master Enrico Mattei. Salve, signor Moffa. Salve a tutti gli ascoltatori. E abbiamo anche in collegamento telefonico signor Filippo Bovo, giornalista. Anche a lei un sincero saluto. Grazie tante. Salve a tutti. Il Parlamento italiano dà la fiducia al governo di Enrico Letta. Signor Bovo, questo significa che il Movimento 5 Stelle è sceso ai compromessi con altre due forze politiche, PD e PDL, oppure è un segno dell'incapacità o inefficacia di questa forza? È un bel tema su cui riflettere, perché noi sappiamo che perlomeno dalle dichiarazioni ufficiali e dai comportamenti espressi, da quelli più propagandati e sbandierati, noi sappiamo che il Movimento 5 Stelle non è intenzionato ad avere rapporti di alcun tipo, nel senso costruttivo, nel senso collaborativo, cooperativo e via dicendo, con le altre forze politiche. Si è cercato di coinvolgerlo in varie forme, proponendo alleanze, proponendo patti di vario genere, però il Movimento 5 Stelle non ha voluto mai accettare. C'è stato il caso della nomina dei due presidenti delle Camere, dove alcuni tra virgolette franchi tiratori del Movimento 5 Stelle hanno votato per Grasso e per la Boldrini, ma praticamente questa vicenda è stata più letta come un incidente di percorso dovuto a dei malintesi interni, al fatto che alcuni di loro non avevano ben capito che il Movimento 5 Stelle non doveva votare, non doveva esprimersi, che altro. Perlomeno così Grillo ha cercato di frenare la situazione, di controllarla e di presentarla. Bene, il tema su cui ci dovremmo interrogare sarà proprio questo, ovvero il Movimento 5 Stelle riuscirà anche nel futuro a preservarsi, tra virgolette, in questa sua purezza, a non collaborare con le altre forze politiche, a fare un'opposizione che però lo vede chiuso in se stesso, oppure riuscirà riuscirà a sfidare le altre forze politiche su certi temi, presentando magari certi documenti di legge, certi disegni di legge e così via, costringendole magari a dialogare su questi temi, su queste cose, facendo quello che poi si fa in politica poi, no? Barattando praticamente il voto, votando una cosa in cambio di un'altra o cercando un accordo, una mediazione. Ecco, sembra che su queste cose, sull'accordo, sulla mediazione, il Movimento 5 Stelle non ci senta molto, sebbene vi siano dei precedenti, proprio quelli dei casi delle presidenze e delle camere, che dimostrano come tra molti dei grillini vi sarebbe probabilmente la disponibilità a comportarsi in questo modo. Signor Bo, lei è d'accordo con questa affermazione di Di Pietro, che dice Berlusconi con la scelta del governo Letta si è assicurato l'impunità? Beh, sicuramente parlare di impunità è qualcosa di grosso, non so se si è garantito davvero l'impunità. Probabilmente però si è coperto le spalle, ma questa non è una sorpresa, perché i governi di centrosinistra avevano sempre coperto le spalle a Berlusconi garantendogli tutto, basta ricordare il famoso discorso di Violante, mi pare del 2002-2003, quando in Parlamento disse a Berlusconi: noi guardi che l'abbiamo sempre protetta, difesa sotto la nostra legislatura, lei addirittura ha potuto far crescere le sue aziende, le ha quintuplicate, non abbiamo toccato il conflitto di interessi e così via. Bene, Berlusconi da questo punto di vista non ha mai avuto niente da temere dal centro-sinistra, men che meno potrà avere da temere da un governo dove oltre al centro-sinistra c'è dentro anche lui stesso, col suo partito. Del resto non ha avuto niente da temere neanche dal governo Monti, perché molte misure che gli erano, diciamo, non congeniali non sono passate. E voglio dire, un fatto importante che certamente non dice tutto, ma può dire qualcosa, se non molto, è che in borsa il titolo di Mediaset è cresciuto. Restiamo sul tema del neogoverno Letta, però in un altro ambito. Abbiamo letto che Shimon Peres, presidente israeliano, è a Roma per incontrare il Papa Francesco, Enrico Letta e poi anche Napolitano. Signor Moffa, lei come interpreta questa visita che avviene nei giorni in cui il neo premier chiede la fiducia dal Parlamento e dal Senato? Beh, sicuramente, come dire, una visita che si risolverà con qualche richiesta pressante da parte del governo israeliano, come ha fatto sempre con tutti, diciamo, i governi recenti e meno recenti. E quindi, insomma, sicuramente bisognerà dare uno sguardo alla politica estera, c'è cioè il ministro Bonino, nel cui curriculum c'è, cioè, vero, alcune posizioni positive quando ci fu la guerra del Congo orientale, perché accusò non a torto di politica genocida e niente meno che i più grandi alleati in Africa di Israele, cioè l'olandese Kagame, e però poi è, diciamo, un ministro degli esteri che viene dal Partito Radicale, che è un noto partito pro-sionista. Non credo tuttavia che ci siano grandi cambiamenti, per adesso almeno, nella politica estera, speriamo di no. Certo, su questo bisognerebbe alzare la guardia e bisognerà vedere se non soltanto il Partito della Libertà, il PDL, ma anche il Partito Democratico avranno la forza e la volontà di operare in questo senso. Quindi sicuramente questa situazione è a rischio. Tra l'altro ricordo che il ministro degli interni è dottore, o comunque appunto Sanide si è espresso in questo senso. Questo è un segnale di grave pericolo e vedremo come sviluppano le cose, però visto che credo che più o meno stiamo arrivando un po' alla conclusione della chiacchierata, io volevo sottolineare due aspetti. Uno, che se si ha da ridurre la spesa pubblica, la voce prioritaria, a proposito anche dell'allineamento del governo italiano alle posizioni più oltranziste dell'Occidente, la linea giusta è quella, per esempio, di un ritiro pressoché immediato dall'Afghanistan, cioè della partecipazione dell'Italia a guerre che comunque sono ingiuste, sbagliate, senza più alcun senso dopo la morte annunciata di Bin Laden, perché inizialmente gli americani invasero l'Afghanistan con il dichiarato obiettivo di catturare Bin Laden, niente meno che nell'ottobre o novembre del 2001. Quindi una politica di pace che riduca quindi le spese militari. E secondo, di questo ne abbiamo parlato poco, io nel primo intervento, io sono strasicuro, guardate, non si esce dalla crisi se non c'è qualche partito e qualche forza che riprenda il tema della sovranità monetaria e del recupero del reddito da emissione monetaria, cioè lo stampare le banconote da parte del governo italiano, appunto, che non si ritorni a una povertà, a un cameramento del reddito della sovranità monetaria da parte dello Stato italiano. Noi italiani abbiamo perso la sovranità monetaria, la connessa rendita, quantomeno nel 1992 con le privatizzazioni del governo Amato, e il problema invece è invertire la tendenza, perché senza questa misura lo Stato italiano resterà all'infinito indebitato, e senza questa misura non si potranno mai fare quelle riforme che parla o si balbetta oggi: abolizione dell'IMU, appunto il problema del lavoro e così via. Bisogna guardare, diciamo, da una dimensione molto più ampia questa questione. Non si può balbettare delle misure senza sapere poi dove si vanno a trovare i soldi. I soldi si recuperano soltanto in questo modo, in questa fase, cioè o nazionalizzando la Banca d'Italia, oppure, ancora meglio, stampando lo Stato italiano dei biglietti di Stato paralleli eventualmente anche all'euro, come in Italia è stato già fatto, perché i biglietti di Stato, cioè stampati non da banche private o neppure dalla Banca d'Italia, sono esistiti in epoca monarchica, in epoca fascista, e durante la Repubblica sono esistiti all'epoca del ministro delle finanze Vanoni, primi anni 50, e dei governi Moro, dai 66 al 79. Quindi non stiamo parlando di misure utopiche, però bisogna avere il coraggio di farlo, così come bisogna avere il coraggio politico di ritirarsi dall'Afghanistan, certo scontrandosi con poteri e tendenze forti, ma se no che cosa sta a fare la politica? Non certo dovrebbe stare soltanto a scaldare le poltrone in Parlamento. Signor Bovo, lei che ne pensa? Penso che sono d'accordo con quanto espresso dal signor Moffa. Abbiamo sicuramente bisogno di recuperare la nostra sovranità monetaria per uscire dalla crisi, e per questo bisogna che però ci sia una forza politica capace di proporre una misura del genere. Al tempo stesso abbiamo bisogno anche di scelte radicali in politica estera, e da questo punto di vista è importante uscire dall'Afghanistan e anche però ricalibrare completamente la nostra politica estera e strategica. E su questo purtroppo tendo a essere un po' pessimista, nel senso che vedendo il quadro attuale, vedendo e parlando per esempio di questo governo, perché la trasmissione si focalizzava prevalentemente su questo, bene, vedendo questo governo e vedendo chi è stato chiamato ad amministrare il Dicastero degli Esteri, bene, penso che non possiamo farci molte speranze. Emma Bonino è una personalità di nota e comprovata fedeltà agli Stati Uniti. Sì, è vero, nella sua biografia ci sono degli aspetti anche interessanti di scontro raro con queste forze, però prevalentemente è una filo occidentale molto molto accesa. Ma poi non si tratta di essere filo occidentale, perché noi siamo in Occidente. Sì, no, mi perdoni. Si tratta di essere e di capire che c'è un oltranzismo occidentale rappresentato da Israele, E quello è il vero nodo, il problema. Sì. Il problema è che non a caso non è venuto Obama a Roma in questi tempi, è venuto invece Perez. No? E quindi il problema è quello di una linea autonoma rispetto al pressing continuo di Israele, che non solo non ci deve trascinare in una tragica, terribile e criminale guerra contro l'Iran, ma non deve neanche interferire sulla nostra autonomia pur dentro l'Occidente, perché gli occidenti poi possono essere assolutamente d'accordo. Nella storia dell'Europa noi abbiamo avuto un De Gaulle, per esempio, che insomma esprimeva posizioni interessanti rispetto alla decolonizzazione e al mondo arabo. Quindi il nodo è l'oltranzismo occidentale, a mio avviso, e no, su questo d'accordo. Bisognerebbe cercare appunto di lavorare. Abbiamo bisogno sicuramente di intervenire su questo, sì, sono assolutamente d'accordo. E quando... che vada bene così. Prego, no, vada avanti se voleva aggiungere. Ah. Beh, no, essenzialmente volevo dire questo. Penso che sicuramente non sarà del tutto facile per Emma Bonino fare la politica che sogna, quell'oltranzismo di cui parlava Moffa, lei espone e di cui si fa portabandiera, però sicuramente farà del suo meglio perché ciò avvenga. E qual è il punto? Il punto è che comunque, se noi guardiamo cosa è avvenuto anche col governo Monti, di solito si parte in quarta con un certo tipo di politica e poi avvengono dei rallentamenti. Io penso anche alle politiche economiche del governo Monti, le politiche, si parlava inizialmente di vendere i gioielli di famiglia, questo tema non si è ancora toccato, però si parlava a novembre del 2011 di fare prima o poi una vendita della Finmeccanica, dell'IRI, qualcosa si è venduto, qualche pezzetto di Finmeccanica, però sostanzialmente i beni di famiglia sono rimasti a casa loro, dico anche fortunatamente. L'obiettivo del governo Letta probabilmente è quello di portare a termine e di completare e di riuscire in ciò che il governo Monti non è stato capace di fare. E tra queste cose c'è anche questa, c'è anche la vendita dei beni di famiglia, c'è anche quello di agganciare l'Italia agli Stati Uniti e Israele in maniera ancora più solida di quanto non sia stato in passato, perché con i governi Berlusconi bisogna dire che pur essendoci stata una forte alleanza con Stati Uniti e Israele, però c'erano stati anche degli spazi di autonomia ribaditi, pensiamo alla politica con la Russia, con la Libia, con l'Algeria, con alcuni stati di questo tipo. E probabilmente il governo Letta cercherà di ancorare con forza l'Italia agli Stati Uniti e Israele, soprattutto in vista degli scontri che Stati Uniti e Israele meritano di fare a danno di Siria e Iran, ma ci saranno delle resistenze interne, delle inerzie, e questo varrà anche per la politica economica per quanto riguarderà la vendita dei beni di Stato. Questo perlomeno è una mia supposizione.